Iniziamo, se prendete posto, iniziamo con un piccolo ritardo aggiuntivo rispetto al ritardo che quasi naturalmente sempre piccolo, ma quasi tutte le volte abbiamo. Ci scusiamo di questo, ma era un po' inevitabile che fosse così oggi, che abbiamo due illustrissimi professori con noi, professori e amici, grandi amici oggi con noi, e, che come sempre si dice non hanno bisogno di presentazione, ma oggi questo non aver bisogno di presentazione è molto più fondato che non in altre circostanze. Conoscete tutti sia Giacomo Marramau, che è tra i fondatori della Fondazione Basso, ma che ha anche un curriculum di studi e di attività di altissimo livello e che ha insegnato in varie università, ha compiuto il suo corso di studi tra Firenze, l'Italia e poi Francoforte e poi molti altri contatti con centri esteri, e ha insegnato in Italia nell'Università di Salerno e poi ha approdato a Roma 3, di cui ha anche diretto dipartimenti di filosofia di questa università. Oggi è professore emerito di filosofia presso l'Università Roma 3. Massimo Cacciari ha un percorso largamente analogo e quasi coincidente nel corso degli anni, leggermente spostato negli anni, ma anche lui compiuto studi in filosofia nelle università italiane. Lui partiva da Padova, da Venezia, e a testimonianza di quanto siano stati importanti e fecondi i centri di studio e di apprendimento e di elaborazione di filosofia in Italia, quanto sia stata all'avanguardia la situazione italiana nel corso degli anni, ha poi compiuto tutta una serie di altre esperienze fino a fondare la Facoltà di Filosofia del San Raffaele, a dirigerne anche alcune delle strutture. Sia Giacomo che Massimo hanno in questo periodo scritto e prodotto tantissimi testi che sono diventati molto importanti. Per quanto riguarda Massimo, voglio anche ricordare l'opera, e questo riguarda però anche Giacomo, di indefessa fondazione di riviste che erano cenacoli importantissimi di dibattito accesi, di discussione. Io giovanissima all'università ricordo iscritta alla Facoltà di Filosofia della Sapienza di Roma, ricordo l'emozione con cui lessi i primi numeri di Angelus Novus e poi i successivi di Contropiano, di riviste che hanno fatto epoca. E nella fase odierna la mancanza di questo tipo di strumenti, di cenacoli, un po' perché sono stati spiazzati dall'avvento delle nuove tecnologie, dalla diffusione della comunicazione sul web, e le riviste online che si vanno formando non riescono a surrogare, a svolgere quella medesima funzione, e su questo ci sarebbe da riflettere, ma un po' anche per il venir meno di una certa responsabilità e di una certa iniziativa da parte degli intellettuali di sinistra, che negli anni 60-70 erano invece attivissimi. Massimo Cacciari ha svolto anche un'intensa attività politica. Io me lo ricordo responsabile delle aree chimiche interconnesse nel vecchio PC. Facemmo un convegno a Siracusa, non so se te lo ricordi, Massimo, in anni, forse era 78, non ricordo più, o addirittura 77. E poi è stato, come sapete, anche sindaco nella stagione dei grandi sindaci di Venezia, poi ha fatto tante altre cose e oggi è qui con noi. Avendo impiegato più tempo di quello che pensassi, ma volevo anche dare questo doveroso riconoscimento a questi percorsi e anche all'amicizia grande che ne è nata, sarò ancora più breve nel dire qualcosa per introdurre l'autore che discutiamo oggi, anche perché per l'appunto sia Giacomo Arramao che Massimo Cacciari avranno da dire cose che saranno interessantissime e che merita passare subito ad ascoltare. Ma le uniche cose che voglio dire su Walter Benjamin è ricordarvi a quelli di voi, e non sono pochi tra i presenti oggi, che da tempo seguono questa scuola di democrazia della Fondazione Basso, che io penso sia enormemente meritoria. Ci siamo già imbattuti in Benjamin negli anni passati. A proposito degli anni passati, dico tra parentesi che abbiamo prodotto, curato da Gabriella Bonacchi, un libro che raccoglie 2 anni di lezioni e di incontri della Scuola di Democrazia, a cui abbiamo dato un titolo poetico, Luce dai classici, e che per voi che siete iscritti alla scuola è a disposizione con uno sconto e se volete quindi potete acquistare. Dicevo che ci siamo già imbattuti più volte in Walter Benjamin, in particolare quando abbiamo discusso e ragionato attorno alle grandi prospettive e analisi critiche di Horkheimer e Adorno, quando abbiamo discusso di Lukács. Benjamin fu amico e in contatto, anche se l'età erano leggermente differenti, con Lukács. Fu influenzato da Lukács, dal weberismo e dal kantismo del giovane Lukács, soprattutto del Lukács dell'anima e le forme. Benjamin è stato un autore grandissimo, meritava dunque che noi facessimo un incontro a sé dedicato specificamente a lui, anche perché in questa fase, dopo un declino di attenzione a questi grandi autori della teoria critica, c'è un ritorno di attenzione, escono libri anche belli, anche interessanti. Di recente ne è uscito uno che si chiama Il figlio della felicità, e quindi già questo titolo dice molto di Benjamin, che ha inseguito tutta la vita un ideale di felicità e che, come sapete, invece è morto tragicamente con un drammatico suicidio nel 1940. Un autore quindi molto tormentato, che ha percorso sentieri inusuali, basti pensare a un ebraismo spinto fino al limite del misticismo, spesso, anzi sempre, in anticipo sui tempi, e questi percorsi inusuali che andavano per esempio dal barocco all'avanguardia, un'avanguardia a cui lui ha guardato sempre con un certo ottimismo, a differenza del suo grande amico Adorno, che sotto l'influsso dell'esperienza dell'esilio americano guardava invece con grande preoccupazione a certe tendenze irrazionalistiche e distruttive delle avanguardie. Anche lo stile con cui Benjamin scrive è uno stile non usuale, di grandissimo fascino, e non penso solo al testo più letterario che lui ha scritto, Infanzia berlinese, che è qualcosa di veramente struggente, ma anche, io vi chiedo, chi trovereste, quale autore trovereste oggi che descriverebbe il suo rapporto con la Costituzione, con l'idea di Costituzione, con i valori, i principi della Costituzione, attribuendo alla Costituzione, come fa nello scritto sulla violenza che è contenuto nell'antologia in italiano chiamata Angelus Novus, attribuisce alla Costituzione il tenero compito, si rivolge alla Costituzione con questa espressione di combattere la violenza, altrimenti sempre pronta a sopraffarci. Io quindi adesso do la parola prima a Giacomo e poi dopo in successione a Massimo Cacciari. A te Giacomo. Bene, grazie. Grazie Laura. Io avevo cominciato a lavorare su Benjamin quando ero a Francoforte, inizio anni 70, grazie ai rapporti molto stretti, eravamo anche vicini di casa nel Westend francofortese con un caro amico che non c'è più, tragico, morto suicida, uno dei curatori all'inizio delle opere di Walter Benjamin per l'editore Surkamp di Francoforte, Tilman Rexroth, una figura straordinaria di studioso, al tempo stesso solare e tragico, che voglio ricordare, quello che sto per dire, idealmente dedicato a lui. E mi soffermerò, come vuole il programma, sulle tesi sul concetto di storia. Quel testo che Benjamin si portava dietro nella borsa, ancora non ultimato, il giorno del suo suicidio, fino al giorno del suo suicidio. E comincerò col dire però che la mia lettura delle tesi sarà una lettura ovviamente non da studioso, ma proiettata sull'oggi, perché sono convinto che nessun autore come Walter Benjamin è riuscito ad esprimere la segreta cifra messianica che percorre come una fenditura verticale la struttura antagonistica del nostro presente globale. E sono convinto che sia questa decisiva circostanza a fare delle tesi sul concetto di storia un testo letteralmente estremo, un testo al tempo stesso testamentario e testimoniale, un testo dunque che pare rivolto direttamente a noi tutti collettivamente intesi, ma anche a ciascuna e a ciascuno di noi, a chiunque sia in grado di coglierne la straordinaria tensione interna. Ora, la chiave di lettura delle tesi sul concetto di storia che vorrei qui prospettare e che poi ha a che fare con tesi che sono venuto in qualche modo portando avanti nel corso degli anni, espressa in forma deliberatamente provocatoria da un titolo ossimorico, come si dice, un po' contraddittorio, messianismo senza attesa. Sintagma letteralmente paradossale, in contrasto dunque con la doxa, con ogni common sense, opinione corrente circa i caratteri tradizionalmente attribuiti al messianico. Come può darsi infatti in senso proprio messianismo senza orizzonte di aspettativa? A prescindere appunto dalla dimensione dell'attesa messianica. E il venir meno dell'attesa non costituisce allora ragione sufficiente del dissolvimento della tensione messianica in quanto tale? Ecco, io penso che si trovi qui racchiusa la cifra segreta di un testo a un tempo traslucido, apparentemente molto chiaro, ma in realtà enigmatico, che può ricevere un senso compiuto solo ricomponendo la costellazione multipolare dei suoi referenti concettuali e simbolici, reinterpretando cioè la radicalità del suo nucleo teologico-politico nella forma di un messianismo non semplicemente secolarizzato. E dunque in questo testo abbiamo racchiusa la proposta di un concetto di storia che si colloca non dopo la fine della storia, che per Benjamin è una espressione priva di senso, non dopo la fine della storia, ma piuttosto dopo la fine della fede nella storia. Quando la fede nella storia, la fede nel futuro, è venuta meno. Ora, per accostare il tema, prenderò spunto da un passo dell'ultima lettera di Benjamin ad Adorno. Un documento prezioso e intenso di un dialogo divenuto, malgrado lo accennava prima Laura, le ben note divergenze, sempre più stretto. In questa lettera del 2 agosto 1940, che precede di poco il suicidio di Benjamin, inviata, ironia della sorte, da Lourdes, Benjamin sembra applicare all'ora estrema della propria esistenza la costellazione teologico-politica del caso estremo, del Grenzfall, del caso limite, dell'extremus necessitatis casus. E dice: la totale incertezza, scrive ad Adorno, che lui chiama liba tedi, cosa molto diversa dalla prima lettera, Herr professor Adorno, cioè, quindi segno di un'intimità che era stata raggiunta alla fine, malgrado la divergenza, la totale incertezza su ciò che il prossimo giorno, la prossima ora porterà con sé, domina da molte settimane la mia esistenza. Attenzione, abbiamo qui insieme una contrazione temporale assoluta e un ribaltamento diametrale dell'attesa messianica, no? In una sorta di stato di eccezione. Nella situazione del caso estremo si dà una struttura bipolare del tempo, ci dice Benjamin, in cui gli estremi dell'angoscia e della speranza si relazionano specularmente. E questo è un motivo che attraversa tutto il pensiero radicale del XX secolo, che fa riecheggiare i noti versi di Hölderlin, Massimo li conosce a menadito, dove è il pericolo, l'accresce anche ciò che salva. Ebbene, non è difficile rintracciare, io credo, all'interno delle tesi sul concetto di storia, nell'enigmatica espressione riconnettere i frantumi, ricomporre i frammenti, das zerschlagen zusammenfügen in tedesco, no? Appunto, ricomporre l'infranto, della nona tesi sul concetto di storia, non è difficile cogliere l'eco messianica proveniente dall'antica dottrina, appunto cabalistica, la dottrina luriana, no? Della rottura dei vasi. Ed è proprio l'intersezione tra messianismo beniaminiano e Kabbalah che produce in un punto specifico il compimento del discorso, cioè la creazione, il compimento della creazione è affidato, secondo la visione cabalistica, all'azione umana. Ora, ciò conduce, se proviamo a leggere le tesi beniaminiane in controluce con l'appello finale di Heidegger a un paradossale rovesciamento. Se per Heidegger ormai solo un Dio ci può salvare, per Benjamin soltanto noi, esseri umani, siamo in grado di salvare Dio. Solo l'uomo può salvare Dio. Questo è un paradosso intimamente ebraico che getta luce sul significato che la categoria di redenzione viene ad assumere dentro la costellazione di rimanti prospettata dalle diverse redazioni di questo testo radicale ed estremo, come dicevo, rappresentato sul concetto di storia. Il primo aspetto della nuova messa a fuoco del messianismo investe la tematizzazione. Decisivo risulta essere qui il carattere programmatico dell'intitolazione, Benjamin parla, dicevo, di concetto di storia, Begriff, in senso proprio forte, no? Un termine hegeliano, ossia di una storia che ridotta a concetto permane come referente centrale, ancorché problematico del discorso. Non si tratta pertanto, ripeto, di tesi sulla fine della storia, bensì di tesi sulla storia, pensate ed espresse nel tempo della fine. Quello è il punto fondamentale, quindi non sulla fine della storia, ma tesi espresse nel tempo della fine. Ciò che conta non è la fine del tempo, è il fatto che noi viviamo il tempo della fine. Con questo intendo sostenere che il messianico, lungi dal mettere capo alla fine dei tempi, coincide con la restituzione dell'umanità al suo carattere, e questa è la formulazione beniaminiana, al suo carattere semplicemente storico. Quando saremo usciti, per dirla con Marx, dalla preistoria dell'umanità, ognuno di noi sarà un'entità puramente e semplicemente storica, senza i vincoli dello sfruttamento, dell'oppressione, della dominazione. E allora, semplicemente storico nel senso che ha a che fare con la rappresentazione, e qui Benjamin usa sempre un concetto marxiano di Marx, Darstellung, la rappresentazione proprio nel concetto che Marx più volte adopera nei suoi testi della maturità, rappresentazione cioè di un'umanità finalmente sottratta alla storia naturalizzata del progresso e del dominio. Storia naturalizzata del progresso e del dominio. Ora, l'insistenza beniaminiana sul concetto va assunta in stretta correlazione con la declinazione messianica del motivo marxiano del modo di rappresentazione, della Darstellungsweise, del modo di rappresentazione. Ragion per cui le tesi vanno lette non come una chiave onnicomprensiva, come una sorta di summa filosofico-storica, ma come un laboratorio incandescente di pensieri e di esperimenti concettuali. Sono tesi cioè contrassegnate da uno spiccato sincretismo, badate bene, in cui, come è noto, come è stato anche documentato più volte filologicamente, spesso svaniscono i contorni fra registri simbolici diversi, come quelli del messianismo, delle scatologie, dell'apocalittica. C'è anche la figura dell'anticristo nel corpo delle tesi. E allora, in questa sincope di elementi eterogenei, vi è il segreto della straordinaria suggestione che le tesi esercitano ancora su di noi nella forma di quello che io chiamo un pathos trattenuto, vi è un pathos trattenuto nelle tesi. Benjamin ha cercato fino all'ultimo di levigare il testo, distillando con cura le parole, selezionando con straordinaria acribia i sostantivi e gli aggettivi per indirizzare la sua cogente concatenazione argomentativa verso una finalità precisa, operare una conversione simbolica, non genericamente metaforica o analogica, tra i due assi del messianismo e del materialismo storico. Ma, e qui sta il nodo cruciale, la cifra della conversione è data in Benjamin da un criterio specifico direttamente mutuato dall'ambito teologico-politico. Senza la teologia politica dello stato di eccezione, la possibilità di una conversione reciproca di questi due assi è destinata a restare lettera morta. Non dunque con il materialismo storico della seconda e della terza internazionale. Le tesi dunque si costituiscono, dicevo prima, in diametrale opposizione non solo con l'apologetica del progresso, ma anche però, e qui va aggiunto un altro punto problematico, molto forte, con la retorica delle generazioni future. E qui Benjamin è un autore realmente, come dire, destabilizzante. Una sorta di ribellione contro la retorica delle generazioni future che c'era già nel dibattito della sinistra socialdemocratica e non soltanto socialdemocratica del periodo fra le guerre. Si pensi, e voi tutti avete, credo, davanti il testo, comunque lo conoscerete a memoria, alla lapidaria proposizione conclusiva della dodicesima tesi. Odio e volontà di sacrificio della classe oppressa si alimentano all'immagine degli antenati asserviti, non all'ideale dei discendenti liberati. Vedete che con quale forza, no? Che vedremo poi il finale, eh? E perché messianismo senza attesa? Perché siamo noi gli attesi. Noi siamo attesi dai morti, dai sommersi, per dirla con Primo Levi. La forza del simbolo, cioè del bild, contrapposto all'ideal kantiano, certo Kant lui aveva studiato Kant da giovane, ma qui lo contrappone totalmente, cioè il bild si contrappone all'ideal. E dunque questa forza del simbolo è tutta radicata nel passato, non nel futuro della filosofia della storia. Per Benjamin il Messia inteso nel senso, immanentizzato dell'assenza di attesa di una storia che finalmente deve divenire tale. Il Messia può sopraggiungere in qualunque istante. È per questo che Benjamin gioca sulla scommessa dell'accelerazione, anche richiamandosi ai testi ebraici e della cabalistica ebraica. No? Il Messia giungerà a suo tempo, però io accelererò questo avvento, affretterò questo avvento. Questi sono i commenti che lui fa, no? Giocando sulla scommessa che tale accelerazione sia da considerarsi in senso propriamente storico, qui la polemica con Scholem, con l'amico Scholem, no? Non metastorico, non nel senso dunque della storia come additività, bensì della storia come costellazione che si apre alla redenzione. E per questo Benjamin usa un termine preciso, Erlösung, non Rettung, Erlösung, che è un termine che lui trae dal lessico di un altro grande autore, che è Franz Rosenzweig, di cui Massimo è conoscitore profondissimo. Il Mashiach, cioè il Messia, l'unto, può venire ogni giorno. E ogni generazione reca in sé, questo è il punto, ogni generazione reca in sé un suo particolare terminus, un suo particolare kairos, suo particolare tempo opportuno, celato, ma pronto a essere rivelato in ogni istante, anche se non sappiamo ancora quando. Dice Benjamin, sebbene egli possa ritardare, lo attendo ogni giorno, qualunque giorno finché egli verrà. Cioè il tema del qualunque giorno è molto importante ed è esattamente l'atteggiamento ebraico che si ritrova in Benjamin, no? Resta solo per Benjamin da stabilire in che forma, in quale configurazione concettuale, in quale intreccio teorico-pratico. Ebbene, andando verso l'ultima parte del mio intervento, la chiave esplicativa è fornita dalla tesi diciottesima. Una tesi che io ritengo cruciale, quella nella quale Benjamin scrive: nell'idea della società senza classi, Marx ha secolarizzato l'idea del tempo messianico. E subito dopo aggiunge, no? appunto aggiunge ed era giusto così, ed era giusto così. La degenerazione per Benjamin avviene più tardi, avviene nel momento in cui la veduta ideologica affermatasi nel movimento operaio socialdemocratico opera una sorta di sublimazione della rappresentazione in ideale. La sciagura sopravviene per il fatto che la socialdemocrazia elevò a ideale questa idea. Badate, sono proposizioni fortissime, inutile che giriamo intorno. Sono, secondo me, matematicamente esatte come diagnosi di quello che storicamente è accaduto. Il piano inclinato verso la disattivazione della carica politica messianica ha luogo per Benjamin con la dottrina neocantiana del compito infinito, che è divenuta la Schulphilosophie, cioè la scolastica del Partito Socialdemocratico. Abbiamo sentito opposizioni analoghe l'altra sera presentando il libro di Laura, no? La riduzione ideale della cosa. Ma una volta definito il fine della società senza classi come un movimento asintotico, indefinito, indeterminato, orientato da uno schema ideale, allora il tempo omogeneo e vuoto si trasforma, dice Benjamin, in un'anticamera nella quale si poteva attendere con maggiore o minore tranquillità l'ingresso della situazione rivoluzionaria. Questo carattere passivo dell'attesa, spoliticizzante, disattivante, no? Non è allora una prerogativa, dice Benjamin, del messianico, è la prerogativa di un concetto trascendentale e indifferenziato del tempo storico, incapace di cogliere la costellazione insieme singolare e strutturata, vertebrata del presente. E infatti, proseguendo nella lettura della stessa tesi, troviamo il tema dell'attimo, la differenza che in Benjamin tra due concetti, tempo-ora, la costellazione del presente, della Jetztzeit, e invece dell'attimo, del Augenblick. E il gioco tra questi due termini è molto importante per capire la critica di Benjamin alla concezione dell'ideale. La categoria di attimo di Augenblick svolge nel corpo delle tesi una funzione nettamente distinta da quella di Jetztzeit, di adesso, o come io ancora preferisco tradurre sulla base di Solmi, tempo ora. E proprio in questo cruciale passaggio delle tesi, infatti, si parla di Augenblick e non di Jetztzeit. Di attimo e non di tempo, dell'adesso, di tempo ora. Ora, come mai questo? A mio parere si spiega soltanto in un modo, perché soltanto per Benjamin, se noi agiamo per anticipare e affrettare l'evento, l'azione rivoluzionaria, quindi come azione proprio radicalmente appunto politica, può essere definita un'azione propriamente messianica. Ora, reinterpretato alla luce di questo cruciale passaggio delle tesi, il messianico beniaminiano acquista un senso nuovo e più intenso. Più precisamente, esso si colloca al punto di incrocio tra attimo, Augenblick, e passato, e Vergangenheit, fuori di ogni simbolica infuturante dell'attesa. Ogni istante reca in sé la dynamis, la potenza o virtualità del messianico, a condizione che esso venga concepito, cioè ossia alla lettera colto, afferrato, begriffen, dice appunto Benjamin, nella sua singolare, irripetibile specificità. E solo quando l'azione politica si fa riconoscere come azione messianica, il tempo ora si converte in attimo. Ma vi è di più. Le costellazioni del tempo ora si convertono nell'attimo non in virtù di una tensione utopica verso il futuro, ma per il fatto che il ricordo Erinnerung del passato degli oppressi, come detto nella sesta tesi, no? Balena nell'attimo del pericolo. Balena nell'attimo del pericolo. E si attiva davanti alla eccezione intesa anche come allarme, una sirena di allarme per quello che sta accadendo e per quello che parla anche a noi oggi, no? A noi oggi. E nell'immagine del passato, dunque, non in una qualche progettazione del futuro che si trova depositata la chiave della conversione reciproca di messianismo e materialismo storico. Cito ancora Benjamin: per il materialismo storico l'importante è trattenere un'immagine del passato, immagine Bild der Vergangenheit, ideale, Bild der Vergangenheit, nel modo in cui si impone imprevista nell'attimo del pericolo. È in quell'imprevisto e imprevedibile balenare che deve entrare in campo l'azione rivoluzionaria. Ed è precisamente in quell'attimo che ci troviamo nel tempo propriamente messianico. Ma se messianico non è in senso proprio il tempo dell'attesa, esso non è neppure il mero tempo ora, il mero tempo dell'adesso. Ma è il tempo dell'adesso che viene riconvertito in attimo attraverso l'azione rivoluzionaria. A partire da qui, e qui proprio sono le battute conclusive, le cose si complicano ulteriormente ed è necessario a questo punto rideclinare le questioni. La redenzione che noi riusciamo a riattualizzare tramite l'azione è, come si è visto, legata al balenare dell'immagine del passato. Ancora una volta la correlazione biunivoca dei due assi messianismo-materialismo storico produce nella quattordicesima tesi una segreta simmetria di opposti. A un polo troviamo l'espressione bellissima salto di tigre nel passato, bellissima, che è rappresentato dalla moda, dove Zimmer riprende e dove Benjamin riprende le famose tesi di Zimmer sulla moda. E all'altro polo troviamo invece il salto dialettico, salto di tigre nel passato, salto dialettico verso l'azione. Tra i due salti intercorre al tempo stesso un'analogia e un contrasto, quello che potremmo chiamare una parentela conflittuale. Anche la rivoluzione francese usava il salto di tigre, il balzo di tigre nel passato, ad esempio, quando Robespierre citava l'antica Roma esattamente, sempre Benjamin, come la moda cita un abito di altri tempi. Ma questo avviene inevitabilmente, dice Benjamin, dentro uno spazio già da sempre predisposto e prefigurato dal potere, in un'arena in cui comanda la classe dominante. Radicalmente diverso, invece, è il modo in cui il continuum del progresso viene fatto esplodere dal salto dialettico che sta alla base del concetto marxiano di rivoluzione. Referente categoriale di questo salto non è più infatti il tempo ora, ma per l'appunto l'attimo. Un Augenblick che la tesi quindicesima, a conferma di quanto ho cercato di dire finora, salda intimamente alla dimensione dell'agire. Allora, la consapevolezza di scardinare, scrive Benjamin, il continuum della storia è proprio delle classi rivoluzionarie nell'attimo della loro azione, vedete. Ora, in questo crocevia, a mio avviso, si colloca l'originale rielaborazione operata da Benjamin della tematica dello stato di eccezione come frazione del tempo omogeneo e vuoto, quello che lui chiama il tempo omogeneo e vuoto. L'essenza del fascismo non risiede in alcun ricorso nostalgico al passato, ma è tutta iscritta nella potenza tecnocratica che si dispiega dal moderno concetto di storia progressiva. Sotto questo profilo, per Benjamin il fascismo si alimenta del progresso esattamente come se ne alimenta il movimento operaio, che in quel continuum si è passivamente adagiato. Non c'è nulla, si legge nella tesi undicesima, che abbia corrotto i lavoratori tedeschi quanto la persuasione di nuotare con la corrente. Per loro lo sviluppo tecnico era il favore della corrente con cui pensavano di nuotare. E questo detto da un pensatore che, come noto, non aveva affatto nei confronti della tecnica il giudizio negativo che aveva Adorno. E come si esce allora da questa situazione di stallo, dice Benjamin, da questa deriva entropica del processo storico? E se ne esce, qui Benjamin dice la occorre in qualche modo trovare questa apertura, questa piccola porta, quel margine pericolosamente minimo, questo margine pericolosamente minimo, che è la piccola porta da cui può entrare il Messia. Il Messia in questo senso. Il Messia che irrompe nell'attimo, nel balenare del pericolo e nell'azione rivoluzionaria. Cioè il Messia non entra, secondo Benjamin, per la grande rappresentazione del cattolicesimo romano, come pensava Schmitt, ma sopraggiunge nell'istante del pericolo, allorché un piccolo spiraglio sembra schiudersi, dal momento che la porta d'ingresso del messianico è la porta d'ingresso della contingenza, della caducità. È un punto molto importante. Poi non posso dilungarmi oltre, ma c'è tutto un rapporto con la visione cosmologica che ha Benjamin, no? Lo spaesante cosmico, il riferimento al testo di Blanqui sugli astri, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo una visione in cui questo aspetto della contingenza viene collocato. Quindi una contingenza cairologica che coincide con una sorta di interludio fra l'essere e il nulla, il vuoto e il pieno, la disperazione e la speranza, l'esilio e il regno. Questa è la visione beniaminiana. E qui abbiamo questo, allora, il carattere appunto pericolosamente minimo del margine e l'apertura della redenzione. Vengono a trovarsi allora in un equilibrio precario. In questo equilibrio precario si situa nel corpo delle tesi la traccia teorica di Marx, ma è un Marx che non coincide con nessuno dei Marx dimezzati della tradizione, non il Marx scienziato della spiegazione delle leggi di movimento del capitale e neppure il Marx profeta della narrazione storico-dialettica, intento a suscitare mitopoieticamente le energie del soggetto rivoluzionario, ma piuttosto il Marx della Darstellung, della rappresentazione, quello capace di saldare insieme in una sintesi esplosiva l'analisi spettroscopica del mondo dominato dal feticismo della merce con la tensione messianica latente in ogni agire rivoluzionario. Per questa via la rappresentazione marziana si trasforma nel laboratorio beniaminiano in un reagente chimico essenziale per operare una sintesi di scienza e redenzione. Ed è in virtù di tale saldatura che l'analisi della fantasmagoria della merce, riletta da Benjamin in chiave quasi surrealista, viene permeata del pathos proveniente dall'esperienza degli oppressi, degli sconfitti, o per usare la suggestiva espressione di Primo Levi, dei sommersi della storia. Ma una volta investita dall'appello del passato, la rappresentazione del materialismo storico è in grado di restituirci la costellazione di un presente aperto all'azione messianica, diametralmente opposto alla rappresentazione apologetica di un presente sigillato dalla mitologia e dalla giurisprudenza del vincitore. affiora qui il tratto davvero dirimente del messianismo politico di Benjamin, il suo corrispondere all'appello del passato anziché a un'ingiunzione del futuro. E di qui anche la radicale inversione simbolica della nozione di attesa messianica che fa della generazione presente, di ogni generazione presente, il destinatario o è l'oggetto dell'attesa e al tempo stesso il soggetto della redenzione. In breve, siamo noi a essere attesi, siamo noi i destinatari dell'attesa messianica, attesi dai morti. Non altro significato possono avere gli accenti letteralmente straordinari e commoventi della seconda tesi. Il passato reca con sé un indice segreto che lo rinvia alla redenzione. È una delle tesi anche letterariamente più belle. Se così, allora esiste un appuntamento misterioso tra le generazioni che sono state la nostra. Allora noi siamo stati attesi sulla terra. Allora noi, come ad ogni generazione che fu prima di noi, è stata consegnata una debole forza messianica a cui il passato ha diritto. Fin qui Benjamin. Siamo noi dunque, proprio noi che viviamo nel presente, a essere investiti dalle generazioni passate della responsabilità non già di custodire utopicamente una speranza, un'aspettativa, bensì di intraprendere un'azione messianica. Una volta ritrascritta come un balenare nell'attimo del pericolo del passato non risarcito degli oppressi, delle vittime, dei senza nome, l'idea beniaminiana di redenzione viene pertanto a convergere con il sentimento, cito, che neppure i morti saranno al sicuro dal nemico se quel nemico continuerà a vincere. Quel nemico, dice Beniamino, non ha ancora smesso di vincere. Ora, il ritorno del cuore delle tesi, del motivo cabalistico della redenzione come formula insatura, come pure del paradosso ebraico, per cui soltanto noi siamo in grado di salvare Dio, avviene a partire dall'effrazione del concetto di storia orientato alla linearità di un tempo omogeneo e vuoto. E tuttavia, qualcosa di quella linearità permane, e precisamente permane nel sentimento di una irreversibilità declinata bodelerianamente. Non dimentichiamo che probabilmente questo era tesi sul concetto di storia, erano la parte, frammento di una sezione che doveva essere all'interno del passaggio in Werke, dunque della grande opera appunto dedicata fondamentalmente a Baudelaire, quindi una declinazione dell'irreversibilità in chiave ipermoderna. Dal momento che ci troviamo ormai irreversibilmente immesse, dice Benjamin, in una Einbahnstraße, in un one way, in una strada a senso unico, non è l'inizio ma la fine a costituire la vera posta in gioco dell'angelo della storia. Per dirla con Kafka, altro autore chiave per comprendere il senso latente del messianismo senza attesa di Benjamin, davanti all'appello messianico del passato di cui noi che viviamo la costellazione del tempo ora, siamo i soliti destinatari ed eredi, ciò che conta non è la via ma la fine, il punto terminale. Quella che chiamiamo via per Benjamin non è che la nostra esitazione. Tutto qui. Ma cercherò di sviluppare alcuni punti toccati da Giacomo in questa bella, completa relazione, cercando, come dire, già di sollevare delle questioni, di introdurre proprio il dibattito. Tantissime cose vanno discusse, perché come appunto è stato sottolineato, il linguaggio di Benjamin, la formazione di Benjamin, le suggestioni che coesistono nel suo pensiero sono tutte da dirimere. vedendone gli antecedenti, discutendone anche l'attendibilità, no? Perché questa idea chiave, come è stato giustamente detto, e che ci provoca grandemente, questa idea cioè che l'energia rivoluzionaria non nasce dalla prefigurazione di un ideale, ma dalla rabbia, come potremmo vedere anche i termini precisi che usa Benjamin, che suscitano le sconfitte e le ingiustizie del passato, si direbbe di giustizia, e sì, funziona se vediamo gli antecedenti anche del pensiero socialdemocratico, che è l'obiettivo polemico poi delle tesi, in modo esplicito, in modo durissimo, in modo violento in certi momenti, nel passaggio Kant, Fichte, certo, questi erano i loro autori. In Hegel questo discorso non acchiapperebbe niente, perché Hegel ti direbbe: so io il Messia atteso, appunto. Il mio sapere è esattamente il Messia che voi poveri europei attendavate. Quindi perché non fai conti con Hegel, questo signore qui? Sarebbe stato interessante. Marx è un hegeliano, non è un kantiano né un fichtiano. E questa è una. Sapete, io ero un innamorato di Benjamin, tanto è vero che appunto nel 64, una rivista che Laura citava, Angelo Snows, ma poi gli amori passano. E credo che vada sottoposto ad un vaglio critico molto attento. Benjamin, in una delle tesi che Giacomo ha citato, molto bella, fa coincidere l'idea di rivoluzione con appunto il coglimento di questo Kairos, no? Voi progressisti avete castrato l'energia rivoluzionaria, no? Perché se l'energia rivoluzionaria diventa un processo, un movimento, e si discioglie in questo divenire, in questo tempo continuum, e che rivoluzione potete mai organizzare? Quale carattere rivoluzionario può avere la vostra Tathandlung, il vostro agire? Il vostro agire seguirà la corrente, appunto quello che ha detto Giacomo. È così, non c'è dubbio che è così. Si potrebbe dire, sì, cerchiamo pure di vedere che in Marx le cose si pongono in modo diverso, certamente si pongono in modo diverso, ma anche Marx diceva bisogna seguire la corrente. Bisogna seguire la corrente. Questa era l'obiezione che Lukács faceva a Benjamin, no? E a Bloch, per altro verso. Certo bisogna seguire la corrente. Non hai letto Hegel? Il processo deve partire, la possibilità si dà sulla base della situazione reale. È la dialettica di realtà e possibilità che è al centro della grande logica. L'hai letta Benjamin, la grande logica? Ma forse, chi lo sa. Questo tuo Jetzeit, o questo tuo la rottura del momento movimentum nell'attimo rivoluzionario. Certo, se non c'è una decisione, se non c'è uno stato di eccezione, è come puoi pensare a una rivoluzione che non sia nient'altro che riformismo, cioè trasformazione, cioè socialdemocrazia, quindi mai rivoluzione. Sì, ma quali sono le conseguenze teoretico-filosofiche di queste idee? Bisogna trarle. Sono una concezione del tempo che che è alla fine una sorta di negazione del tempo, cioè tutto ciò che è autentico non avviene nel divenire. Non avviene nel tempo come divenire, nel tempo come movimento. L'autenticità sta nell'attimo. Ma l'attimo, si sarebbe chiesto Platone, come fai a catturarlo, ad afferrarlo? Come faccio a catturare l'attimo? Il momento rivoluzionario, che non è un momento, è Jetztzeit. Bene, ma come fai a catturarla? Perché per essere rivoluzionario c'è bisogno di un'azione. Non c'è rivoluzione senza azione, dice appunto in una tesi. Non puoi essere rivoluzionario se non agisci da rivoluzionario. Ma agire rivoluzionario vuol dire afferrare la situazione reale e determinare una discontinuità. Ma dov'è che mi acchiappo? A quale ciuffo, per usare l'immagine rinascimentale del Kairos, mi acchiappo per compiere questa rivoluzione? Qui è in gioco una filosofia del tempo, bisogna elaborarla, bisogna pensarla, bisogna elaborarla, bisogna che ce ne sia un concetto, non un'immagine, bisogna che ce ne sia un concetto. E non è cosa semplice. Si può dire non esiste il tempo. Il rivoluzionario è colui precisamente che ha questa idea del tempo completamente estranea a ogni progressismo, ogni eccetera eccetera, ogni idealismo, progressismo eccetera eccetera, che dice tempo non c'è il tempo. E vive il rivoluzionario nell'attimo, vive nell'attimo. Ma appunto è una operazione assai complicata. L'exifness, cos'è sto Jetztzeit? È l'exifness? Cos'è? La prima tesi, poi vorrei invitarvi a mettere a confronto le tesi con un frammento molto precedente, il famoso frammento teologico-politico che fu elaborato da Benjamin nel momento in cui era più in contatto proprio con Bloch e che viene citato nel frammento. Ma volevo porre una domanda più, forse un po' più interessante, che riguarda poi tra l'altro l'inizio di queste tesi, cioè i primi frammenti, no? Quello molto famoso, no? Leggiamolo insieme, praticamente facciamone un riassuntino. Il materialismo storico viene fuori con questa strana immagine, no? Tante volte citata, eccetera. Vince sempre, si rifà a un marchingegno che in qualche volta nelle edizioni del concetto di storia viene anche mostrato, un marchingegno mi pare settecentesco, no? In cui c'era una marionetta che giocava a scacchi e vinceva sempre. E non si capiva come mai vincesse sempre. Poi si è scoperto che dentro questo marchingegno c'era un campione di scacchi, un nano campione di scacchi, che muoveva questa puppe e che nelle partite alla fine riusciva sempre a vincere. Dice Benjamin che il materialismo storico o dialettica storica, materialismo è dialettica, no? È come questa puppe che vince sempre. Dice, può farcela con chiunque, ma a patto che prenda in ihrem Dienst, proprio a proprio servizio, la teologia, che oggi, come ben nota, è piccola e disprezzabile, anzi, come il nanetto, è piccola e disprezzabile come quel nanetto, che è, e che, anzi, non solo il piccolo sostanziale, ma il materialismo storico, che deve, per vincere, perché se no non vince, prendere a proprio servizio la teologia, questa teologia, il nanetto che sta al suo interno, non deve farsi assolutamente vedere. Cioè deve avere la teologia al suo servizio, ma non deve farla assolutamente vedere la teologia, il nanetto, piccolo e brutto. Cioè la teologia, messianismo, la dimensione messianica di cui Giacomo ha parlato, quella è la teologia per Benjamin. La teologia è l'alleata essenziale della dialettica storica, ma è piccola e brutta e non si lascia vedere. Altrimenti il gioco finisce e il materialismo dialettico, la dialettica storica e il materialismo storico perdono. Quindi il materialismo storico dovrebbe avere per Benjamin questa astuzia, per così dire, no? Astuzia, di tenere al suo interno nascosta la teologia. Ma poi, Benjamin, tutte le tesi successive, tu la scopri questa teologia? Non è nascosta per niente, avete sentito Giacomo? È palese questa teologia, è come quel tipo che dice Parigi val bene una messa, ma lo dice, lo pubblica sul giornale, sì, io vado a messa, ma sapete, vado a messa soltanto per conquistare Parigi. La teologia serve, ma la teologia tu me la mostri, come la mettiamo questa cosa qui, questa astuzia, che la teologia deve stare nascosta? Altrimenti tutto il discorso che Giacomo ha fatto non starebbe in piedi, stante proprio all'esordio delle tesi. Credo che questo sia il vero rovello di Benjamin, ma anche nostro, no? Perché riteniamo, tanto per parlarci tra di noi, riteniamo davvero che l'elemento teologico, in quel senso preciso, la dimensione messianica declinata appunto in quei termini, non un'attesa progressiva, ma noi siamo gli attesi, a noi, debole o forte, la forza messianica è nostra. Quindi che questa dimensione teologica sia essenziale all'agire politico? Cioè che sia necessaria una teologia politica per il rivoluzionario? Qui davvero il movimento operaio successivamente ha totalmente appunto abbandonato Benjamin. Qui sta la rottura. Perché ad occhio, forse, con un dirigente di questo movimento si poteva anche accordare un po', no? Dicendo, beh, la rivoluzione deve essere uno stato di eccezione, deve esserci una rottura, non sarei mica progressista, storicista. Tutto questo a un certo punto è entrato abbastanza nel discorso comune, no? Una critica all'idea di progresso, una critica all'impostazione storicistica che per un lungo periodo è stata dominante all'interno del movimento operaio, eccetera. Quello che assolutamente è rimasto totalmente estraneo e completamente culturalmente indigesto è questo, che per vincere bisognava avere al proprio servizio la teologia. Allora, due cose. La prima, la teologia è disponibile ad essere al servizio della dialettica storica? Domanda essenziale, teologicamente, e dobbiamo porcela. La teologia è, Giacomo ne ha accennato, ma qui c'è la rottura totale con Scholem. Al di là che erano amici, che hanno continuato a essere amici, non c'entrano assolutamente niente. Questo sia chiaro. C'è una radicale diversità. Proprio su questo. La teologia non può essere al servizio. Primo aspetto. Secondo aspetto, e qui è la rottura totale con Lukács. da un lato la rottura totale con Scholem, dall'altro la rottura totale con Lukács. Sei, ma tu credi che il materialismo storico possa vincere avendo al suo servizio, ammesso che ciò sia possibile, la teologia? Ma questo è il modo più spiccio per farlo perdere, non per farlo vincere. Non per farlo vincere, per creare una totale confusione concettuale al suo interno. Noi siamo dei rivoluzionari, non siamo i messia attesi. E tantomeno attendiamo un messia. E noi ci muoviamo hegelianamente sulla base della dialettica tra realtà e possibilità. Tutto materialmente determinato, la realtà è queste, le possibilità sono queste in base a questa realtà. Se tu disinneschi questa dialettica teologicamente, disarmi le energie rivoluzionarie, non le fai vincere. È così, non è così, ma qui c'è la differenza essenziale tra io ho detto Lukács, perché Lukács era quello che si è avvicinato di più, figuratevi quelli che appunto hanno un'idea storicistica, progressistica, quando non kantiana, fichtiana, eccetera, eccetera, della teoria che deve stare alla base delle energie rivoluzionarie. E sono grandi problemi, questo. Qui non so si possa rapidamente rispondere, ma questa dimensione di teologia politica come essenziale per concepire la rivoluzione, per poterla anche solo pensare, costituisce un grande problema. Io credo che Benjamin abbia ragione, tuttavia. Perché? Perché alcune delle idee che sono assolutamente essenziali per concepire una rivoluzionaria Tathandlung nella rappresentazione che del capitalismo, della forma sociale del capitalismo da Marx, alcune di quelle idee sono assolutamente teologiche, c'è poco da fare, non possono essere declinate sensatamente se non in modo teologico. Prendiamone una: uguaglianza. Decliniamola pure come vogliamo, ma l'uguaglianza ha un senso soltanto messianico, perché nella realtà, la realtà produce inesorabilmente e continuamente disuguaglianze e non può fare che così. La realtà è questa, la realtà è uno spazio machiavellico di dissidi, di conflitti. Quando io pongo l'idea di uguaglianza, e devo porla, no? Cioè prendo quella perché è l'unica cosa sulla quale da quel dì in poi tutte le forze rivoluzionarie in qualche modo si richiamano. Ma lo si richiama anche Benjamin. Adesso vediamo brevemente quell'aspetto su cui vorrei aggiungere qualcosa appunto a livello seminariale rispetto alla lezione sulle tesi che ha fatto Giacomo. Quella anche Benjamin. E quando Benjamin parla di felicità, di cosa parla? Che cos'è l'essere felice se non appunto l'essere in una situazione messianica in cui ciò che per Spinoza sarebbero state tutte le passioni fredde di questo mondo, dall'invidia alla gelosia al risentimento, tutte le passioni dell'ultimo uomo, sono venute meno. Non è quella. Non è quello. Non è quella la promessa messianica cosa si intende? Quella è. Messia è questo. Ma nello stesso tempo questo è propriamente teologico. Perché? Perché realmente nel mondo è totalmente inconcepibile, è una contraddizione in termini pensare mondanamente, profanamente, quella situazione di uguaglianza. È una contraddizione logica. Quindi ci vuole la teologia. È necessaria la teologia politica. Ogni processo, ogni movimento, ogni idea rivoluzionaria nel mondo contemporaneo ha bisogno di questo. Sapete chi lo diceva? Un autore che non è molto frequentato da Benjamin, ma che ha pagine straordinarie da questo punto di vista e che era lettissimo in quell'epoca da tutti e in particolare da Lukács, che è Kierkegaard. Kierkegaard ha delle pagine di politica straordinarie da questo punto di vista. Dice, guarda questi comunisti, guarda queste cose qua, ma non si rendono conto che tutte le loro idee sono soltanto teologia? Sono soltanto appunto messianismo secolarizzato. Ma non messianismo nel senso volgare, attesa del Messia, l'ideale, di no, quello esattamente che dirà Benjamin. Ma tutta teologia, e d'altra parte è necessario che sia così, aggiunge da, diciamo, reazionario Kierkegaard, riprendendo delle cose che poi ridirà senza conoscerlo Schmitt. È necessario che sia così, perché? Ma perché come vuoi governare il quarto stato, così si esprimeva, non marxianamente, Kierkegaard, no? Ma era il proletariato. Come vuoi governare la plebe, come vuoi governare il quarto stato senza idee religiose? Cosa vuoi metterti a ragionare col quarto stato? Occorre teologia politica, quindi se tu rivoluzionario devi avere all'interno il nanetto, ma che però gioca a scacchi in modo splendido. Perché gioca a scacchi in modo splendido? Perché ha una grande memoria storica, perché la teologia, come vuoi vincere se non hai questa memoria? Se l'angelo non ha gli occhi al passato, badate, sì, al passato per, appunto, diceva, citava Giacomo, no? Per mettere insieme, no? Raccogliere tutti i frammenti, tutti i frantumi, eccetera, eccetera, ricomporre ad integrum, ciò che l'immondo fiume della storia ha fatto a pezzi. Ricomponiamolo, ma con gli occhi al passato vedi anche tutta la cultura del passato, vedi anche, non vedi mica solo gli sconfitti, no? Ricomponi quelli, ma come li ricomponi? Li ricomponi perché tu hai il begriff, appunto. Nel begriff non ci stanno mica solo gli sconfitti, ci sta tutto il passato. C'era tutto il passato, e chi riuscirà a cogliere il kairos, l'istante, l'attimo, ora, ed essere il Messia ora, e quindi colui che raccoglie in sé l'intero passato. E qual è il punto di vista fondamentale da cui tu cogli in te l'intero passato? Ma la teologia. Ecco, cos'è questo? L'ultimo, cos'è l'ultimo libro della metafisica? Che qual è? Non è un libro di teologia, è ovvio. Fin tanto che non giungi a Dio, non puoi essere giunto al concetto. E poi il concetto e Dio si identificano, Hegel. Quindi, questo è. Brevemente, se c'ho ancora 5 minuti, inviterei soprattutto i giovani a leggere le tesi che Giacomo ha benissimo analizzato con questo frammento, perché molte delle cose che ho detto, poi i problemi che ho cercato di sottolineare risultano più evidenti se se fate questo raffronto. È un frammento molto precedente, di una ventina d'anni quasi precedente, e che frammento teologico-politico, sicuri si intitola, evidentemente strapostumo, che è praticamente contemporaneo al tentativo che Benjamin fece appunto di pubblicare la famosa rivista Angelus Novus, no? Che poi ha dato il titolo alla grande operazione fatta da Solmi ed Einaudi con l'antologia di 60 anni fa, quant'era? Era 60, non mi pare. Minima Moraglia prima e poi Minima Moraglia prima, un po' censurato qua e là, e poi questa stupenda antologia curata da Renato Solmi. E nel testo che era noto già allora che Benjamin fece per introdurre questa antologia, era l'annuncio dell'antologia, leggiamo questa strana frase, no? Dice: la rivista Angelus Novus vuole prestare finalmente attenzione, dice, è l'ora di prestare attenzione a coloro che con la massima oggettività, la massima freddezza e la massima discrezione esprimono il tormento e la miseria di quest'epoca. Sembra Weber, eh? Sì. Forse dalle parole che prima Giacomo citava, non avete avuto l'impressione di questa massima oggettività, massima freddezza e massima discrezione. Però lui voleva pubblicare una rivista che avesse questo tono. Anzi, aggiunge a conclusione, la rivista cercherà la razionalità fino all'estremo. Ed è contemporaneo questo frammento teologico-politico, dove è evidente la enorme fatica di Benjamin di mettere insieme questa esigenza che lui voleva esprimere con questa rivista, che poi appunto mai nacque, e questa sua anima teologica. Questo bisogna appunto... Questo testo, questo frammento, mette più in evidenza rispetto alle tesi questo problema. Dice, la faccio brevemente, ve lo riassumo, solo il Messia compie e chiude ogni accadere storico, vollendet, precisamente nel senso che egli crea, schafft, proprio pone, crea la relazione dell'accadere stesso col messianico. Quindi appunto quella Jetzeit, no? Non c'è più progresso, non c'è più un divenire, no? Il Messia chiude, rivoluzione, attimo. Coglimento del Kairos, discontinuità, si rompe il tempo come continuum. Però aggiunge, attenzione, nulla di storico può riferirsi da se stesso al messianico. Perciò il regno di Dio non può configurarsi come telos della dynamis storica. Attenzione. Cioè, la dinamis storica non ha in sé impotenza il regno di Dio, non può essere vista come ciò che ha in sé impotenza il regno di Dio. No, l'ordine del profano non può essere costruito sul pensiero del regno. Cioè, distinzione assoluta tra l'ordine del profano, accadere storico, e l'ordine del regno, l'ordine messianico. Anche qui si dice, beh, hai letto Weber. che tra l'altro leggevano pure. Nel suo cenacolo c'era anche Bloch, come sapete, oltre che Lukács, eccetera, eccetera. Sono le due etiche. E non c'è nessuna possibilità di confonderle. L'ordine del profano, dell'accadere storico, non ha nulla a che vedere con quello del regno. Cioè, il regno, dice, questa espressione bisogna tenerla a mente, il regno è ende, fine, compimento, erlesung anche. Mentre non è assolutamente zil, scopo, cioè non rientra il regno in nessuna, non può essere fatto rientrare in nessuna Zweckrationalität, Weber, in nessuna razionalità lo scopo, è ende, compimento, fine, non è scopo. Bene, tutto chiaro. Bravo, hai letto Weber, bene. Questa relazione, tuttavia, sussiste tra il messianico e l'idea di felicità su cui è orientato l'ordine politico. Andiamo piano. E dice, questa è la domanda decisiva, cioè esordisce distinzione ende zil, ordine profano, regno, diciamo con il linguaggio adoperato finora, messianico, religioso, teologico, politico. Però questa è la domanda decisiva, oltre a questa distinzione. Perché sussiste una relazione tra il messianico e l'idea di felicità? E la risposta di Benjamin è sommamente problematica. Lui dice, la freccia su cui procede la dynamis storica è altra rispetto a quella della, la chiama così, messianische Intensität, intensità messianica. Dice, sono due direzioni assolutamente distinte, ma, e viene fuori con questa, ma come una Kraft, una forza, che procede per la sua strada. Immaginate, allora, l'intensità messianica che procede per la sua strada. Può, è in grado, Vermag, è in grado di secondare, favorire, accelerare, befördern, un'altra diretta in senso opposto, così anche l'ordine profano può favorire l'avvento del regno messianico. Cioè, una forza va in questa direzione e ha appena detto che è una forza, quella dell'intensità messianica, che non dovrebbe avere nulla a che fare con la Zweckrationalität dominante nel profano. Ma l'altra, che va nella direzione opposta, può favorire l'intensità messianica, andando nella direzione opposta. Provate a risolvere l'indovinello. Così dice, il profano non è una categoria del regno, ribadisce, ma, e questa è la risposta che lui dà all'indovinello, risposta che a me non soddisfa per nulla, ma una categoria, e certo delle più pertinenti, aggiunge, del suo facile avvicinarsi, seines leisesten Nähens, del suo anzi più facile avvicinarsi, cioè non è una categoria del regno, ma grazie a questo meccanismo un po' Per cui, andando nella direzione opposta, favorisco quello che va nella direzione opposta alla mia. La categoria, il profano, può essere quella categoria, non dice l'unica, dice una delle più pertinenti, del suo più facile avvicinarsi. Quindi, quale ordine profano avvicina al regno? E qui è un punto molto delicato, perché se voi avete seguito appunto tutta la lezione di Giacomo, avete capito che il centro anche della polemica nei confronti del progressismo, della socialdemocrazia, eccetera, è appunto, dovrebbe essere l'eliminazione di ogni continuum. Ma come faccio a concepire l'avvicinamento senza, se non all'interno di una dimensione del tempo, come continuum? Come concepisco questo avvicinarsi? Come concepisco questo avvicinamento? Nelle tesi l'idea non viene forse capovolta? L'ordine messianico non è quello che è aperto, appunto, tutte le cose dette da Giacomo, che è aperto all'ora e coglie l'ora in ogni momentum, per cui quel momento non è più un momento, ma è quell'attimo, quell'istante. Ma allora, rispetto al frammento teologico-politico, emerge la questione. E che cosa ha a che fare con l'ordine politico profano? Nelle tesi non sembra porsi il problema tra ordine messianico e rottura rivoluzionaria. Nelle tesi questo è dato, appartengono immediatamente alla stessa categoria, ma se noi vediamo le tesi alla luce di questo frammento, capiamo il problema, no? Perché mentre nelle tesi ordine messianico e rottura rivoluzionaria vengono posti insieme, appartengono di fatto alla stessa categoria, non è propriamente così in questo frammento teologico-politico. Perché lì, qui, in questo frammento, si mette in chiaro la questione, no? La questione che viene riassunta appunto in questa nella contraddizione tra queste due categorie, insomma, end e zeal. Da una parte, ecco, allora dice Benjamin, ma l'ordine profano, che è l'ordine dello scopo, che è l'ordine della zwecke Rationalität, pur andando in una direzione opposta rispetto all'intensità messianica, accelera, spinge sulla stessa intensità messianica. Come fa? Come fa? E Benjamin tenta una risposta, vediamola, perché giunge a una conclusione che va anch'essa discussa. L'intensità immediata, attenzione, interessante questa espressione, immediata dell'ordine messianico, l'intensità messianica è un'intensità immediata, che il cuore sente immediatamente, sembra di leggere Schleiermacher. Forse anche perché erano l'epoca in cui aveva studiato e aveva pubblicato la sua tesi sulla critica d'arte romantica. E l'intensità immediata dell'ordine messianico procede attraverso l'infelicità, nel senso del dolore, in Sinne des Leidens. Il profano invece aspira al tramonto nella felicità. Cosa significa? Che il profano ha come scopo la felicità, cioè tramontare nella felicità, compiersi, tramonto, compimento, che la sua giornata si compia nella felicità e lì trovi il proprio tramonto. Cioè il suo zil, il suo scopo, là dove tramonta, consiste nell'essere felice. Aspira al compimento tramonto che per il profano è l'essere felice. Mentre per l'intensità messianica procede, usa questa espressione, che non sta tanto d'accordo con tutto quello che si è detto prima a proposito del concetto, procede nella infelicità. Perché? Perché Apocalisse, no? Questa è Apocalisse giudaica pura, ebraica, e quell'Apocalisse ebraica che è l'Apocalisse cosiddetta di Giovanni. Cioè, giungi al regno attraverso l'infelicità. È un susseguirsi di infelicità, no? Che fa giungere al regno. Quindi l'intensità messianica procede nell'infelicità al regno, che è ende, no zil. Il profano aspira, zil, a tramontare felice, a compiersi nella felicità. Tuttavia, la felicità è il ritmo di entrambi gli ordini. Cioè la felicità diventa l'idea di felicità, la mediazione dialettica tra i due ordini. Perché? Perché anche l'intensità messianica che procede attraverso l'infelicità mira al regno, ha come ende il regno. Così il profano che procede o che cerca di procedere costantemente attraverso, cioè cercando di evitare l'infelicità per quanto possibile, però tuttavia anche lui appunto ha l'idea di felicità come il cuore appunto del suo procedere. Ecco dove si combinano nell'idea di felicità i due ordini. La restitution integrum, dice Benjamin, è il loro accordo, la loro corrispondenza. Ma come può il profano corrispondere davvero all'ordine teologico, all'ordine messianico? Ecco il punto ultimo, molto problematico, su cui vorrei finire. Come fa il profano a mostrare il proprio accordo con l'ordine messianico e dunque svolgere anche quella funzione che, pur andando in direzione opposta, anche favorisce e promuove l'intensità messianica? Come fa? Mostrando l'eterna caducità di tutti i suoi atti. Mostrando l'eterna caducità di tutti i suoi atti relativamente rispetto all'idea di felicità che pure lo muove, cioè mostrando l'eterno trapassare, mostrando l'eternità di un tramonto, cito Benjamin. Il profano corrisponde all'ordine messianico mostrando l'eterna e totale caducità della natura, e cioè come, dice Benjamin e conclude, nichilisticamente. Cioè il profano agli occhi del frammento teologico, e mi pare che sia un ragionamento, come dire, ineccepibile. O vi è la separazione, la trennung, tra i due ordini, che viene risolta, tra virgolette, a mio avviso, nelle tesi, ponendo immediatamente, simbolizzando immediatamente, appunto, dimensione messianica, teologico-messianica e azione politica rivoluzionaria. O vi è la separazione netta tra i due momenti, l'ordine profano, eccetera, oppure, se si ricerca realmente un accordo, come dice Benjamin, una corrispondenza tra questi due ordini, e la si ritrova nell'idea di felicità, e mi pare un'idea pertinente, nell'idea di felicità, tenendo ben presente però con grande chiarezza come questa idea di felicità sia quella ende che si concepisce soltanto attraverso Unglück, nel senso del dolore, da un lato, e invece come sia il tramontare, il progredire verso la felicità per l'ordine profano. E allora, se pensiamo che l'idea di felicità possa essere questo momento dell'accordo, il profano, per sostenere questa idea dell'accordo, non può altro che ritenere tutti i suoi momenti, perché nel profano di momenti si tratta, di un movimento si tratta, di un tempo continuum si tratta, di sapere questo, di rappresentare questo, rappresentare l'eterno trapassare di tutti i suoi momenti, e quindi di tutte le forme del suo agire, e quindi di tutte le sue istituzioni, e quindi di tutti i suoi fatti, fatti, non dati, fatti, cioè mostrandone, cioè nichilisticamente, l'ordine profano come espressione del suo stesso eterno essere caduco in tutti i suoi atti. Questa idea, questa affermazione nichilistica all'altezza degli anni del 20-21, appunto, in un'epoca chiave della formazione di Benjamin, in cui si rompe con Lukács, in cui rompe con Bloch, in cui comincia quel rapporto con Scholem molto difficile, molto, molto complesso, al di là della grande amicizia e così via, questo frammento io credo vada letto un po' in contrappunto con le tesi e per mostrare tutta la, in fondo nient'altro che la complessità di questo pensiero, la sua estrema problematicità per tutte le cose che ha detto Giacomo, che ho cercato di dire io. Un altro suggerimento darei agli studiosi, ai giovani studiosi, di leggersi anche quell'altro frammento di Benjamin, che rientra completamente in questi discorsi, ma più direttamente politico, che è il frammento sul capitalismo come religione. Questi tre testi sono i tre testi forse più tesi, più problematici di Benjamin, no? Il frammento teologico-politico, le tesi sul concetto di storia e il frammento sul capitalismo come religione, che è nell'ultima fase della sua vita, ma lì c'è ancora una discussione che non so bene filologicamente come abbiano risolto, ma che pare che si debba far risalire agli anni di Angelus Novus e del frammento teologico-politico. Grazie moltissimo di queste relazioni. Adesso sospendiamo per 5 minuti, non più di 5 minuti, perché non abbiamo troppo tempo e Massimo deve andare via un po' prima. E sospendiamo per 5 minuti per un caffè, una pausa, e riprendiamo fra 5 minuti. Il caffè dentro o fuori? No, fuori. No, grazie delle domande. In realtà, appunto, volevo intanto precisare che l'ultima parte della mia lezione avevo fatto un cenno molto rapido, ma per ragioni di tempo non potevo approfondire, al fatto che a un certo punto dello sviluppo delle tesi sul concetto di storia le cose si complicavano, e Benjamin lo percepiva benissimo. Tant'è vero che dal 1921, che la data del frammento teologico-politico analizzato da Massimo prima, e dove il campo di tensione è straordinario, e drammatico addirittura. Al 1940 Benjamin cerca di risolvere il problema, ma non ne è affatto soddisfatto. Non era mai soddisfatto dei suoi lavori. Questa la, diciamo, da questo punto di vista, una persona intellettualmente straordinaria, mai soddisfatto di quello che faceva, e quelle tesi, in realtà, che alcuni amici hanno ritenuto di considerare degni di essere pubblicati insieme al grande manoscritto del Passagenwerk, eccetera. In realtà, appunto, Benjamin non aveva ritenuto assolutamente di metterli dentro il Passagenwerk. E quindi, diciamo, si pone un po' un problema di insoddisfazione di Benjamin, ma dirò alla fine, intanto rispondo alle domande. Heidegger, dunque, Benjamin aveva letto Heidegger. Aveva letto Heidegger e aveva anche a un certo punto dichiarato che, in una sua lettera, che lo scopo della... lo aveva detto, non mi ricordo la lettera a chi era esattamente, ma era proprio rivolta a qualcuno degli intellettuali con i quali dialogava nell'organizzazione di imprese comuni che poi erano più o meno naufragate. Il nostro compito è quello di distruggere la filosofia heideggeriana. Distruggere la filosofia heideggeriana. Questo proprio lui usa questo termine. Ora, io sono convinto che questa virulenza di Benjamin sia, come dire, un po' simile a quella di Adorno, quando scrive il gergo dell'autenticità, cioè un odio dichiarato, segno anche di grande attrazione, perché come se Heidegger, come se loro stessero lambendo una serie di questioni che Heidegger aveva massicciamente affrontato e che però inquietavano questi interlocutori in maniera molto diversa, sia Benjamin che Adorno. Quindi solo che la posizione beniaminiana è molto netta. Per altro verso, Benjamin, come è noto, è entrato in rapporto con Carl Schmitt anche. Aveva scritto a Carl Schmitt, e Schmitt è al centro dell'opera sul dramma barocco tedesco, e in qualche modo lui arriva a elaborare lo stato di eccezione partendo da Schmitt, ma trasferendolo. Qui il punto è anche lì operazione che lui fa nelle tesi sul concetto di storia per risolvere un impasse, ma senza che tutto ciò lo soddisfacesse. Spostamento dall'ambito politico-giuridico, dall'ambito teologico-politico propriamente inteso, all'ambito del concetto di storia. Andiamo a vedere come funziona l'Ausnahmezustand trasferito sul terreno della storia. Ma quello è un concetto proprio del teologico-politico. E quindi questo transfer che lui opera tentando di risolvere i problemi nelle tesi, a mio parere, non è risolto, complica ulteriormente i problemi e non lo soddisfaceva. Sorel, dunque, c'è un passaggio di uno scritto di Benjamin in cui allude anche a Sorel, al mito di Sorel, e lo vede come uno dei segni dei tempi. Lui diciamo aveva un occhio molto attento su questo tipo di letteratura, eccetera, soprattutto francese, ma non c'è nessuna però elaborazione specifica, almeno a quanto io ne so, nei testi beniaminiani, del rapporto tra la politica e il mito, sul mito in politica. Non esiste, almeno non esiste. Il problema del seculum e quindi il rapporto tra il seculum e il teologico e la auctoritas, appunto, papale e potestas imperiale, che è al centro di Dante, questo non c'è in Beniamin, non esiste, non è in questo senso che Beniamin affronta il problema. Molto rapidamente, la signora Capomastra, allora, storia dell'umanità. Per Beniamin la storia dell'umanità può essere recuperata unicamente come una storia delle rovine. Concetto fondamentale di Beniamin è il concetto di rovina, storia delle rovine. Quindi mettersi un po' a guardare quello che è accaduto. Cioè la filosofia della storia è uno scenario di rovine, scenario di rovine. Tema delle rovine che... ma poi anche oggi è entrato nel dibattito sui Beniamin, c'è una da quando Massimo e io ci occupavamo di Beniamin, eravamo 4-5 gatti in Italia, nel frattempo è arrivata tutta una generazione che scrive su Beniamin, eccetera, il che naturalmente è un bene, non è affatto un male, e quindi il concetto di rovine è assurdo come uno dei concetti alla moda, però sicuramente Beniamin vede la filosofia della storia come rovina. Non molto diversamente da Adorno, il lato più affascinante di Adorno nella negativa dialettica è proprio questo, è vedere proprio la storia dell'umanità a rovescio rispetto alla versione illuministica. Però non dimentichiamo che è una concettualità contro questa, non è una concettualità che pretende di dire, è una concettualità nella chiave di una dialettica negativa, per usare la terminologia adorniana. E la storia, tutta la storia vista in contropelo, dal punto di vista del suo fondo avverso, quello delle rovine e quello della negatività. Claudini poneva il problema del rapporto tra teologia, politica e rivoluzione riguardo alle teologie della liberazione. Dunque, non c'è nessuna traccia di ebraismo nelle teologie della liberazione. Questa è la prima considerazione che io farei, nel senso che non mi risulta né esiste simpatia da parte di alcuna componente del pensiero ebraico nei confronti della teologia della liberazione. Quindi il primo problema è questo, mentre bene o male la riflessione beniaminiana si muove all'interno di quella prospettiva. L'essere supremo di Robespierre ha una funzione compensativa, cioè non è che non avesse a che fare con la tradizione del deismo illuministico francese, no? Nel senso che quello poi ricorre anche in Voltaire, eccetera, non c'è Dio, ma c'è un essere supremo. Serviva, diciamo, da accorgimento compensativo in una fase abbastanza complessa della rivoluzione. Questo provocò in Francia una serie di reazioni. Un'ultima considerazione che a margine anche degli interventi è il rapporto tra il messianico e lo storico, come diceva prima Massimo, è irrisolto in Beniamin, o perlomeno risolto attraverso un cortocircuito nelle tesi sul concetto di storia. Una falsa soluzione, perché alla fine coincidono il messianico e lo storico, attraverso l'idea dell'Augenblick, eccetera, eccetera, del Kairos, eccetera, no? Ma rimane aperto però, e qui il punto fondamentale, il nesso tra il messianico e il politico, che ha metabolizzato la rottura con le filosofie della storia infuturanti. E io credo che qui riprenda, è come se Beniamin non avesse avuto il coraggio di... Io qui, ovviamente, è una lettura sintomale che io faccio, ma è come se nelle tesi di filosofia della storia lui, trascinato dalla catastrofe che si annunciava, e che poi lo porta al suicidio, eccetera, no? Lui avesse, come dire, sostituito la parte più coinvolgente della sua riflessione, rapporto tra messianico e politico, l'ha sostituita col rapporto tra il messianico e lo storico. E quindi che funzione può avere il messianico rispetto al concetto di storia? Che funzione può avere l'Ausnahme Zustand, lo stato di eccezione, in rapporto alla storia? Lo trasferiamo dalla teologia politica di Schmitt alla storia. E secondo me questo è l'elemento veramente aporetico che Massimo ha indicato impeccabilmente nel suo intervento prima. Per quanto mi riguarda, di riflesso io vedo da questa, diciamo, rivisitazione dei testi beniaminiani, che non possono essere compresi con una ottica da commentatori dei testi o, come dire, più o meno con operazioni più o meno capziose come fanno i beniaminologi oggi in voga, eccetera. Ecco, io credo che Benjamin si comprenda unicamente se lo vediamo all'interno della intensissima e assolutamente drammatica, addirittura tragica stagione intellettuale del periodo fra le due guerre mondiali, dove Benjamin ha rapporti con intellettuali straordinari, prima diceva Massimo, Scholem da una parte, Lukács dall'altra parte, Ernst Bloch ancora dall'altra parte, quindi grandi intellettuali, poi i rapporti sempre difficili con Adorno e Horkheimer, con il milieu francofortese e via dicendo, però si capiscono unicamente nella temperie di militanza di quegli anni, sono militanti intellettuali, non sono dei glossatori di testi o finissimi, sia pure finissimi, commentatori di testi. È gente che è passata attraverso un'esperienza politica militante, tragica. Poi Benjamin va attraverso l'incontro con Asia Lacis, aveva rapporti complicatissimi con le donne, insegue Asia Lacis, conosciuta a Capri, la insegue fino a Mosca, senza rendersi conto che aveva un compagno, eccetera. Poi lei lo introduce al bolscevismo. Sono tutte quante cose importanti, sono delle biografie non accademiche. È quello che vorrei dire, biografie non accademiche. Che non possono essere studiate da chi è soltanto un accademico. Ultima cosa, ma questo è un po' un messaggio anche a Massimo, indirettamente io vi vedo un problema insoluto del nostro concetto del politico. Cioè, l'Occidente, Massimo, è stato sempre diviso tra due paradigmi, posti come antitetici. La politica come processo, la politica come evento. La politica come processo. Da Aristotele a Hannah Arendt, questo asse qua, la politica. La politica evento, da Machiavelli a Schmitt a Benjamin. Insomma, una cosa, cioè io credo, tu hai perfettamente ragione, questa è anche la mia posizione, sai che siamo fratelli anche nel pensiero, quindi noi dobbiamo in qualche modo... come dire, operare un tentativo di saldatura o comunque mantenere un campo di tensione tra queste due cose, nella convinzione che so che è chiarissima anche a te, che puoi avere il progetto politico migliore di questo mondo, puoi fare la politica quotidiana anche migliore di questo mondo, cosa che non accade ormai da decenni, va bene, in Italia, ma se non sei in grado di cogliere i semeiaton kairon, i segni dei tempi, e quindi di cogliere il momento e fare intervenire la tua azione politica in maniera tempestiva, anche il migliore dei progetti, cosa che non abbiamo assolutamente, anche il migliore dei progetti naufraga. E allora lì il problema, come dire, il problema Machiavelli torna come assolutamente attuale, il problema della saldatura tra questi due paradigmi di politica che spesse volte la tradizione occidentale ha considerato agli antipodi. Da un lato la praxi, ma lo vedi anche quelli nell'ambito del pensiero politico, chi ama Aristotele, Arendt, odia Machiavelli, odia Schmitt, odia Benjamin e via dicendo, no? Ecco, io credo che invece, se non operiamo una saldatura tra la politica processo e la politica evento, probabilmente saremo forse perduti. Perché riprendo un po' queste annotazioni di Giacomo che mi convincono molto e riprendo dei dubbi che ho avuto ascoltando le vostre bellissime esposizioni che per tantissimi versi mi hanno invece veramente affascinato, confermando nella consapevolezza della ricchezza di questo straordinario personaggio e anche della sua complessità, come voi avete sottolineato, complessità che vuol dire anche contraddittorietà, convivenza di posizioni diverse, aporie, come diceva adesso Giacomo. Giacomo chiedeva di tenere conto che siamo di fronte a biografie non accademiche e di tenere conto della temperie straordinaria degli anni fra le due guerre in cui si snoda, si sviluppa, si espande e poi si riavvita il pensiero di Benjamin come di tutti gli altri suoi amici, interlocutori che abbiamo ricordato. Io credo che questo tener conto della temperie di quegli anni valga molto anche su come possiamo atteggiarci oggi, guardando quindi anche alle ricadute nel presente, rispetto ai problemi insoluti della nostra concezione del politico, come diceva Giacomo. E in particolare quindi anche interrogandoci di più sugli aspetti che emergono di più in altri scritti che non in quelli che abbiamo commentato particolarmente stasera, ma ci sono anche negli scritti di stasera, il rapporto quindi di Benjamin con la socialdemocrazia e con il riformismo e con l'esperienza e con la rottura invece rivoluzionaria, Giacomo ricordava anche l'incontro col bolscevismo di Benjamin. E noi non dobbiamo dimenticare che rispetto alla temperie di quegli anni il socialismo, i socialismi nascenti, perché erano nati nella seconda metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, e trovano l'impatto della Prima Guerra Mondiale, è stata una deflagrazione per tutti i socialismi e per tutte le socialdemocrazie. La socialdemocrazia tedesca vota i crediti di guerra all'inizio della Prima Guerra Mondiale, quindi insomma le rotture, le responsabilità, le catastrofi proprio sulle concezioni dell'umano sono terribili. Tuttavia io penso che forse riusciamo a leggere meglio anche il contributo di Benjamin rispetto alla messa a fuoco di queste cadute che avvengono proprio specificamente su eventi storici epocali, il contributo che Benjamin ci può dare su queste cadute può esserci utile anche analizzando i problemi del riformismo o del radicalismo, perché non c'è più nessuno oggi che pensa a una rottura rivoluzionaria, scindendo però alcuni dei problemi che invece Benjamin, spinto dalla temperie di quegli anni, assomma in una congerie anche lui che alla fine lo porta a soluzioni un po' enigmatiche rispetto alle quali ci si riproducono come enigmi le suggestioni che lui ci dà. Ecco, la prefigurazione del futuro, collievo anche degli aspetti molto interessanti nell'inizio della relazione di Massimo questa sera, e vorrei che se lui può ritornare su questo, anche tenendo conto proprio delle esperienze concrete che abbiamo fatto tutti noi in questi ultimi 30-40 anni, dove ci al termine dei quali ci ritroviamo in una situazione di apparente forse reale dissoluzione e deflagrazione della forma socialista, delle forme socialiste, degli approdi socialdemocratici. Ecco, la prefigurazione del futuro è qualcosa che deve rimanere nelle nostre mani. Se ci priviamo della prefigurazione del futuro, come facciamo appunto a orientarci, a illuminarci, a identificare gli snodi quando bisogna prendere un percorso piuttosto che un altro? E a proposito di prefigurazione del futuro, che quindi implica una enfasi sulla dimensione del progetto, del programma, della progettualità, della ricostruzione anche di idealità, di attualizzazione di idealità, di valori, di ethos collettivi. E qui vengo al secondo aspetto che volevo sottolineare. Se recuperiamo, consapevoli che la politica anche oggi non si può priva di una dimensione di progettualità, alla fine è cieca, asseconda semplicemente le rabbie, le paure, le inclinazioni, le pulsioni che emergono. In questo contesto c'è davvero utile assumere, per esempio, come suggeriva Massimo, che la teologia opera praticamente su tutto, e quando noi ragioniamo di eguaglianza stiamo ragionando di una categoria, di un'entità teologica? Ecco, io non credo che sia. Se intendiamo che eguaglianza come libertà e tanto più come fraternità è un valore sul quale dobbiamo tornare a ragionare e a riflettere, in questo senso forse sì, ma non ci illumina molto, anche perché per esempio si discute di molte diverse concezioni dell'eguaglianza, e anzi una delle ragioni per cui le sinistre si sono trovate dissolte e ora si trovano dissolte è stata che è prevalsa negli ultimi 20 anni, quando le sinistre sono state al governo, una concezione dell'eguaglianza estremamente riduttiva, che era l'eguaglianza delle opportunità, l'eguaglianza dei punti di partenza e tutto il patrimonio. Dico questo, peraltro, con una profonda maturazione di insofferenza verso questo ritorno di retorica sull'eguaglianza. Personalmente io ce l'ho nel sé. Prima c'è stato l'oblio e adesso c'è una retorica dell'eguaglianza che diventa abbastanza insopportabile, e sono anche insofferente verso una cosa che Giacomo diceva in un altro contesto, e cioè che si trattare l'eguaglianza solo in termini economici è una cosa di una riduttività pazzesca, e anche quando la si tratta solo in termini economici, trattarla solo in termini redistributivi è ancor più riduttivo, perché noi dovremmo guardare alle strutture, ai meccanismi profondi, ai simbolici che si attaccano o si distaccano dall'una o l'altra. E nemmeno penso che la realtà non può che essere quella, che noi abbiamo una visione teologica, perché se non l'avessimo la realtà poi non potrebbe che essere quella. No, poi le realtà, i processi storici, per l'appunto distinguendo tra processi e eventi, prendono dei corsi anche molto diversi, e le ragioni per cui siamo oggi a un'esplosione delle diseguaglianze come mai c'era stata nella storia, non solo dell'Occidente ma di tutto il mondo, sono ragioni con cui bisogna fare i conti in un modo che, secondo me, riferirci semplicemente al teologico non ci aiuta a fare, e io penso che dovremmo articolare e inventare, creare, essere molto più creativi rispetto a trattare tutte queste problematiche. Allora diamo la parola. Allora, no, due cose brevissime, perché ha già risposto Giacomo alle domande che sono state fatte, due precisazioni, e poi veniamo a questo ultimo intervento. Heidegger, per un verso è chiaro che se noi dobbiamo affrontare teoreticamente i temi dell'antistoricismo, della polemica, della critica alla grande scuola storicistica tedesca, la filosofia della vita, eccetera, eccetera, il riferimento teoretico è Heidegger, non è Benjamin, il grande filosofo, è lui, che imposta anche una fenomenologia precisa di cosa questo significhi per quanto riguarda un'analitica dell'esserci, no? Però è chiaro che non era questo che interessava essenzialmente Benjamin e non interessava essenzialmente i nemici, come dire, di Heidegger. Era che il pensiero di Heidegger è radicalmente anticristiano e antiebraico. C'è poco da fare. Radicalmente antiebraico e anticristiano. Solo un Dio può salvarci, è un Deus totalmente ad veniens, è il Dio assolutamente altro rispetto al Dio biblico. E quindi Benjamin attinge a piene mani, appunto, in quella tradizione, per i motivi che qui sono stati detti, si potrebbe andare avanti a discutere all'infinito, quindi vi è un'incompatibilità totale. Perché poi fare i salti mortali, qualche teologo, appunto, in vena di creare pasticci inenarrabili, come ha teologicizzato a modo suo Hegel, così ha teologizzato Heidegger, eccetera, ma sono operazioni totalmente bastarde. Quindi è chiaro che non c'entra proprio nulla. C'è una lotta, certo, c'è una lotta aperta, ma Heidegger lo dice continuamente, insomma, no? Non è un ritorno al paganesimo, sia chiaro. È il totalmente altro rispetto alla tradizione metafisica occidentale e all'ontoteologia che è fondata su quella tradizione. Quindi anche da questo punto di vista qui bisognerebbe che finalmente qualcuno che fa le carriere raccontandoci per la miliardesima volta che Heidegger è stato nazista, che ha fatto il discorso del rettorato, eccetera, eccetera, capisse che tutto sommato anche da questo punto di vista c'è una differenza radicale nel pensiero, a meno di non fare tutto di ogni erba un fascio. Allora tutti i tedeschi erano nazisti, finiamola lì. Beh, ma c'erano delle differenze, pur essendo tutti i tedeschi nazisti vi era qualche differenza tra i tedeschi, no? Ecco, e così c'è una differenza tra Heidegger e il nazismo, perché il nazismo è sì paganesimo a modo suo, c'è cioè il mito pagano, la razza, eccetera, eccetera, ma non c'entra niente con Heidegger. Heidegger è un pensatore anti-ebraico, come lo era Marcione, se vuoi. Non è che necessariamente da questo significano i campi di concentramento Hitler. Vabbè, lasciamo stare, che appunto poi quelli se la prendono con Heidegger senza sapere un piffero di teologia, un piffero di queste cose qua, è chiaro che semplificano molto e fanno brillanti carriere, che niente hanno a che fare con l'intensität messianica, appunto, con la messianische intensität, che per Heidegger e che per Benjamin faceva tutt'uno con, appunto, come diceva, con la militanza politica. Tra i diversi autori di quegli anni decisivi per Benjamin metterei anche Brecht, perché poi lì, per sottolineare maggiormente quello che Giacomo ha detto, e appunto non si può intendere Benjamin se no in quel fuoco, e se lo si vede al di fuori tutte queste cose qua. Qui bisogna essere molto radicali, cioè se andiamo in cerca di un progetto politico, Benjamin non ci serve, punto, niente di male. È inutile che andiamo in cerca adesso di non serve, perché appunto il futuro anticipato, non ha, che è un modo di Feuerbach, dice futuro anticipato, è umanismo feuerbachiano, è un'espressione di Feuerbach, bisogna anticipare il futuro. No, non è questo, l'ha spiegato benissimo Giacomo, non lo sto a riprendere, insomma, no. Non è un'attesa di un futuro, non è anticipare un futuro che ha da venire, è ora. Questa è la categoria fondamentale. Questa è la categoria fondamentale del rivoluzionario. Ora, l'immagine del passato guizza via, balena. Il passato può scomparire insieme a ogni presente, ogni ora, se non viene riconosciuto come significato ora, in essa, als in ihm gemeint. Bisogna trattenere il passato che balena nell'attimo del pericolo, Hölderlin. Citazione, parafrasi di Hölderlin, e ripete continuamente due volte in due righe lo stesso concetto. Qui si esplicita la debole forza messianica. Strappare il passato, quello in cui ci riconosciamo come in esso significati, strapparlo dalla trasmissione conformistica che è sempre sul punto di soggiogarlo, le inattuali di Nietzsche, dal patrimonio culturale, quasi fosse un bottino, no? La nostra idea di patrimonio culturale, l'idea di patrimoni culturali che hanno i progressisti, no? Che hanno i riformisti, sono un bottino, li chiama, il patrimonio culturale, il ministero del patrimonio culturale, un bottino. Bisogna strappare il bottino dal corteo dei vincitori. Bisogna che, Kabbalah, insomma, no? Die Funken der Hoffnung, le scintille della speranza, bisogna ravvivare le scintille della speranza del passato, bisogna far sperare il passato. Così volli che fosse, Nietzsche, fin tanto che c'è un così è stato, sono servo, sono schiavo, no, così volli che fosse. Faccio sperare il passato spera con la mia speranza, ma qui di nuovo le aporie infinite, eccetera. Speri, Benjamin, ma se speri, come fai? Se hai questa virtù teologale della speranza, come fai a non appunto pensare un futuro, a non infuturarti in qualche modo? Termine dantesco, no? A proposito di uno degli interventi, termine dantesco, l'infuturarsi. E qui sono tutte le aporie che abbiamo visto. L'aporia però fondamentale, la discussione fondamentale, riprendo quello che diceva Giacomo, ma che poi riprendeva anche Laura, è questa: messianismo e politica. Sì, riprenderei quanto Benjamin esponeva nel frammento. Se la politica ha a che fare con la dimensione messianica, ha davvero a che fare con la dimensione messianica, e la felicità, l'eudaimonia, il benessere, che ne so, che ha a che fare con la politica, che è lo zek della politica, ha qualcosa a che fare, perché possiamo decidere che non ha niente a che fare, ma allora decidiamolo, punto, basta, chiuso. E qualcuno mi deve spiegare come, se prendiamo questa decisione, possiamo non cadere nello storicismo progressista. È inevitabile, è assolutamente inevitabile, è una conseguenza logica da cui non puoi scappare. Vabbè, ma possiamo decidere. Se non lo decidiamo e ci intestardiamo nel tentativo di trovare Liebergang, di essere pontefici, cosa accade? Accade che l'ordine profano, che persegue il suo zec, eccetera, eccetera, nella felicità, così come anche l'ende deve essere felice, perché nel regno di Dio speriamo almeno lì di essere felici, no? Se no, può esprimersi soltanto distruggendo l'ordine profano. È una conseguenza logica inesorabile, da cui possiamo uscire soltanto quella conseguenza nichilistica, da cui possiamo uscire o in senso socialdemocratico, lasciamo perdere la teologia, e allora facciamo i nostri programmi, i nostri progetti, facciamo tutto quello che vuoi. Oppure schmittianamente. E dice, no, tu bene, mi fai parte di quella tribù di maledetti che nasce nel 48, che mi scatena la plebe, che mi scatena il quarto stato, che mi scatena le lotte, che mi scatena i conflitti, e posso metterti in ordine soltanto creando una grande alleanza politica, un grande simbolo politico dentro a cui ci sta anche la Chiesa. Allora non più la teologia, ma la Chiesa, la forma politica della Chiesa. E se non hai questa combinazione, cose che anche altri nell'Ottocento avevano detto, bada che per tenere in forma questo mondo che si è scatenato tra 30 e 48, si è scatenato, perché tra 30 e 48, avete presente, si scatena tutto. Dalla morte di Hegel e Goethe, praticamente stesso anno, 30-31, muoiono i due grandi borghesi e c'è lo scatenamento universale. La sinistra hegeliana, i cosi, tutto. La critica del cristianesimo, prima di tutto abbattiamo il cristianesimo, poi abbattiamo lo Stato, poi eccetera eccetera, si scatena tutto. Benjamin, tu fai parte di questa ondata e io so, ho capito che la tua forza è teologica e ti devo contrastare sul terreno teologico, ma è un contrasto che non è, avviene sul terreno propriamente teologico, ma avviene sul terreno di quella teologia che si incarna nella grande forma politica della Chiesa. E allora borghesia che ragioni e Chiesa, dovete fare un compromesso storico, perché altrimenti Benjamin e Schmitt dà ragione a Benjamin e lo legge come, cioè, come se, è costantemente in ascolto di questi pazzi, è costantemente in ascolto di che capisce che è vero che il movimento rivoluzionario può davvero far esplodere il continuo della storia se ha al suo servizio la teologia. Certo. Lo capisce benissimo, a differenza dei socialdemocratici che non capiscono assolutamente un cavolo di sto discorso, la grande destra lo capisce perfettamente. Guai quindi tutti i suoi tentativi per disinnescare questo. E poi le simpatie di tutti questi grandi reazionari, poi cioè erano stalinisti costoro. Erano stalinisti. Cioè, dice, bene l'impero sovietico, ritiene a bada. Come no? Quello non c'entra più niente con la teologia che mi raccontavano da appunto 30-48 fino a non c'entra niente. Quello è sistema, quello è Chiesa. Quindi va bene. Quindi il confronto tra le Chiese cosa fa? Ammazzi i rivoluzionari. E di questo che è successo in Occidente, di questo sono stati ammazzati dal confronto tra le chiese. Non dico che si faceva la rivoluzione, dico che appunto non si pensa più la rivoluzione. Cioè, cosa significa? Non si pensa più l'attimo, non si pensa più l'ora. Siamo, appunto, come diceva Benjamin nelle tesi, dentro il processo storico. Andiamo con la corrente. Dopodiché vai con la corrente con una navicella, con un transatlantico, vai con la corrente con l'aereo, vai con la corrente a piedi, vai con la corrente in modo più o meno comodo, in modo più o meno intelligente, in modo più o meno tecnicamente organizzato, ma vai con la corrente. E hai cessato di pensare diversamente. Cioè è finita la differenza che queste intensità di questi pensatori ponevano, è finita la differenza tra un pensiero rivoluzionario e la corrente, è finita la differenza, tutto si svolge nella corrente. E allora Benjamin, è inutile anche starne a parlare, perché cosa me ne faccio di Benjamin se sto nella corrente? Qualcuno me lo deve spiegare, assolutamente niente. È una curiosità letteraria, come è diventata una curiosità letteraria per tanti nostri amici. Non c'è dubbio. Vediamo così? No. Lo so, se c'è qualche domanda ancora. Prego. Ma matematico, eh? Un matematico lei? Ah, non è un matematico lei? Cos'è? Sociologo. Sociologo. Ah, io che colpa. E perché deve essere matematico? E perché deve essere un matematico? L'ha preso per un'altra persona. Ah. No, allora forse ho... Chiedo scusa. No, la puppe è il burattino, la teologia è quello che muove il burattino. L'anima del burattino. La puppe era il materialismo storico. Ma a quale teologia si faceva riferimento? La cattolica? A chi è cattolica? È quella che era tirata prima. Ebraico. Ebraico. Essendo ebraico. Ma la lezione che ha fatto Giacomo mi pareva fosse chiara. Tradizione ebraica di un certo ebraismo molto cabalistico, molto mistica. Un ebraismo eterodosso. Ogni confessione ha la sua teologia, quindi. E certo. Grazie. Vediamo se ci sono altri che volevano dire qualcosa. No. Allora.